Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.06, è arrivato il nostro momento, nostro perché ho un ospite già qua in studio con me, sono molto contenta, ma ve lo presento tra poco, mentre Giorgio Mattei prontissimo in regia la parte tecnica, Laura Vanossi la vedo affaccendata in redazione, ci sono i titoli del nostro sommario. Influenza e dintorni, tra i rimedi della nonna e i consigli degli esperti. Quando il troppo stroppia, non perdere la testa, punta alla moderazione. Il Servizio Sanitario Nazionale compie 30 anni, traguardi raggiunti e sfide da raccogliere. Allora sì, ne parliamo proprio oggi, facendo un po' gli scongiuri. Tosse, raffreddore, febbriciattola, dolore alle ossa, mal di pancia, mal di testa. Insomma, l'inverno, lo sappiamo, porta con sé un'intera costellazione di sindromi e malattie che in modo spesso improprio e generico noi chiamiamo influenza. Ma di influenza ce n'è una sola. Qua in studio con me ho il nostro influenzologo preferito, il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È un classico, l'influenza è come le tasse, non scappa l'appuntamento annuale. Quest'anno sarà, lo immaginiamo e già le premesse sono in questo senso, abbastanza intensa, fastidiosa, con la presenza di questa australiana ormai isolata come virus in più casi, ancora sporadici un po' in tutta Italia e in tutta Europa, ma che grazie anche alle feste, quindi grazie ai baci, abbracci, viaggi, è per rovinare un po' le feste come sempre, si mette lo zampino. Comincerà a infastidire gli italiani e quindi bisogna come sempre approcciarla in modo di buon senso, senza fare quegli eccessi del passato, anche su rischi come l'aviaria e quant'altro, che alla fin fine hanno rovinato poi quello che è la percezione di una malattia che è sì banale per la gran parte dei soggetti, però per chi è più fragile può essere un elemento di complicanza. Professor Pregliasco, spesso diciamo, mi sento un po' l'influenza. Io stesso ho il naso chiuso. Siamo veramente due larve, male, perché il professor male. Pregliasco continua a soffiarsi il naso. Io vero, sono tutta ossa, allora noi possiamo giustamente parlare di raccontarci, lei può darci anche dei rimedi, delle indicazioni. Intanto invito già i nostri ascoltatori a raccontarci quali rimedi utilizzano. In ciascuna famiglia c'è il rimedio, c'è efficace. Hai un po' di influenza, fai così. Ti senti male, prendi questo. Allora scriveteci intanto i vostri rimedi di casa. 800 24 00 24, se invece volete proprio raccontarceli, mentre se volete solo scriverli al 349 238 6666. Proveremo, se è ancora possibile, a tenere lontana questa australiana, non farci non cedere alle sue lusinghe, e nello stesso tempo, se invece l'australiana ha deciso, ecco, di infilarsi, almeno 5 milioni di italiani, ecco, quindi 7-8% noi vorremmo, di tutti noi però ci aiuta a scacciare anche l'influenza o a darci delle regole per sopravvivere in quei 4-5 giorni con, no, un certo sprint, per senza farci troppo abbattere. Il medico preferito degli italiani, io ho proprio qua due stelle, è il nostro influenzologo, il dottor Carlo Gargiulo, che è tornato a trovarci, medico di famiglia e consulente medico della trasmissione Elisir. Buongiorno dottore, bentornato e grazie. Buongiorno Nicoletta, grazie, un buongiorno ai nostri ascoltatori. Dottore, allora noi ci siamo già lamentati perché il professor Pregliasco, devo dire che io gliela gufo tutte le volte che viene a farci un po' le previsioni sull'influenza, finalmente se l'è presa anche lui. No, è solo raffreddore, solo non raffreddore. È influenza vera, una delle forme simili, ecco, influenzali, che comunque infastidiscono. Ci tengo a questa, sì, perché mi sono vaccinato, quindi adesso parleremo importante anche di questo. E mentre, dottor Gargiulo, io sono tutta dolorante, mi sento anche un po' la febbre, per cui magari è proprio la stessa situazione in cui si ritrovano molti dei nostri ascoltatori. Lei dal suo, esatto, osservatorio che vede? Ma dunque, vediamo un modesto aumento delle forme parainfluenzali, quindi ci sono queste malattie da raffreddamento. L'influenza vera e propria, quella che Pregliasco mi confermerà, esordisce bruscamente con queste febbri alte, improvvise, brivido, scuotente. Devo dire, ancora non se ne vede tantissima, almeno qui a Roma dove lavoro io. Per cui stiamo ancora lavorando sulle forme virali parainfluenzali, ancora non possiamo testare l'efficacia del vaccino che abbiamo fatto. Tra l'altro quest'anno il vaccino lo hanno fatto in molti, almeno il mio osservatorio per quello che riguarda la mia zona mi dice che molti si sono vaccinati, quindi le campagne forse hanno funzionato meglio degli altri anni. Professor Pregliasco, anche lei si è vaccinato, infatti dice ho il raffreddore. La cera, come si dice, bella, ma il naso cola. Il naso cola. Ma quindi, come sempre, non c'è, come diceva Carlo, che tra l'altro saluto, è un amico caro, abbiamo avuto modo di fare alcune cose insieme. È sempre un piacere sentirlo e confermo appunto come in questo momento sono quei tanti virus, sono più di 260 i virus che ci possono dare forme respiratorie di varia intensità, dal naso chiuso e basta a forme un po' più pesanti, con magari febbricola e quant'altro, che quindi rendono complessivamente poi l'impatto delle sindromi respiratorie pesantissimo, perché in pratica uno su due di noi ogni anno ha forme appunto simili influenzali. Quello che preoccupa di più, come sempre, è l'influenza, e ben venga quello che anche Carlo segnalava, che finalmente sia stato un recupero nelle vaccinazioni, perché è l'elemento determinante soprattutto per evitare nei soggetti più fragili quelle complicanze che sono comunque quantitativamente rilevanti. Allora, se vi siete vaccinati, 824 0024 per raccontarci se in qualche modo vi ritrovate un po' nel quadro del professor Pregliasco e quindi avete una forma simile, un raffreddamento, se invece il vaccino per adesso vi ha protetto al 100%. Ora, tra l'altro, sarà poi più avanti la diffusione del virus. Quindi se volete mandarci i vostri rimedi, ne arrivano già alcuni, provate le cipolle bollite, sono magiche per il catarro, bevete anche l'acqua di cottura, mentre le foglie di cavolo bollite adagiate sulle parti doloranti sono miracolose, ci scrive Adele. Aureglia invece, su fumigi con la salvia, magnifici. L'antinfluenzale più efficace, ci scrive Luigi, è il passato di verdura della nonna. Luigi ci dice però che è anche studente in medicina e che il passato di verdura sia efficace lo confermano, scrive, anche studi americani. Allora voi restate con noi, 824 0024, due grandi medici a vostra disposizione per tenere lontano l'influenza o per cercare di evitarla in qualche modo. 824 0024, i messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. C'è chi scampa l'influenza, ma scivola, per così dire, su una buccia di banana, nel senso che, preso un po' dall'euforia di questi giorni, tra brindisi, feste con gli amici, oppure voglia anche un po' di trasgressione o di dire va bene, me lo concedo, ecco gli stravizi e il conto poi lo fanno arrivare, anche molto salato. Per fortuna però ho trovato che sul mensile di Starbene c'è un articolo che almeno dal titolo sembra fare al caso nostro. Si intitola infatti "Fai festa senza pagare gli extra". In linea con noi abbiamo Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Starbene. Ciao Alessandro. Ciao, tanti auguri a tutti. Grazie Alessandro. In linea con noi abbiamo il dottor Gargiulo e qua in studio con me, un po' raffreddato, il professor Pregliasco. Ma sono tutti amici, quindi... Senti, e tu con gli amici esageri? Sempre. Bravo, ecco, allora, tu sei la persona più indicata. Per quello che sono l'esperto, hai capito? E cosa si fa per non pagare troppo? Allora, se esagero col cibo, ma non lo dico io, lo dicono i medici e gli esperti, per una volta il digiuno per 24 ore è indicato, nel senso che noi non lo raccomandiamo mai perché lo consideriamo sempre un arma a doppio taglio, però se veramente siamo con la pancia gonfia, indigestione, adottare un digiuno per 24 ore, però bevendo molta acqua, infusi di camomilla senza zucchero perché lo zucchero fermenta. Il tè verde, che va tanto di moda, però è efficace su vari fronti. E che ha un'azione antiossidante, quindi unisce la capacità di facilitare la diuresi. Sì. Mentre se invece abbiamo alzato il gomito, che è l'altro classico di questo periodo, inutile se non dannoso cercare di vomitare, anche se abbiamo le nausee. Il famoso canarino, che adesso ricordo come si fa, è veramente... Un tocca sana, esatto. Risolutivo, dice anche il professor Pregliasco. Sentiamo il dottor Gargiulo. Si va di canarino? rimedi questi efficaci, mi preoccupavano più quelli prima dei nostri ascoltatori che sembravano più il pranzo di Natale che i rimedi per l'influenza, però no, va bene, però in effetti sì, tra le cipolle bollite e il passato di verdura, però cose abbastanza, il passato di verdura è leggero. Sì. Allora andiamo di canarino, cerchiamo di evitare comunque gli eccessi, no Alessandro? Sì, però se qualcuno poi ci si ritrova, no? Perché comunque una percentuale di chi si propone di fare il bravo, poi i brindisi si moltiplicano, si sa come va a finire. Per cui il bel canarino è fatto, è un infuso tiepido di limone tiepido, preparato unendo succo e scorza, è proprio l'acido citrico che calma le nausee anche. Lo beviamo non proprio sdraiati, dobbiamo stare un pochino... Certo, su quello ci arriviamo anche noi, Alessandro, va bene che ormai ci dai consigli, ma di non bere il canarino sdraiato ce la facciamo, quindi un po' in piedi. Dipende dall'alcol che hai assunto, sai, il discorso dei piedi. Va bene, ma se voi siete degli esagerati. Alessandro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E buon Natale. Buon Natale anche ai nostri amici. Mi raccomando, Alessandro, mi raccomando. Carissimo, ciao, buone feste. Non esagerare, Alessandro. Ci proverò. Pensa, cioè, ti diamo la nostra foto, ti mando la foto del professor Pregliasco e del dottor Gargiulo. Pensa noi non ecco, correre. Non esagerare e non correre. Grazie Alessandro. Grazie a voi, arrivederci. Pronto soccorso. Allora, professor Pregliasco, facciamo un piacere ai nostri ascoltatori che ci scrivono, ma se io ho il raffreddore, ho la febbre, ho mal di pancia, sono veramente arrivata una carrellata di sintomi, come faccio a capire se magari mi prendo, è un'influenza che a casa nostra è arrivata con anticipo o sono quelle forme simili influenzali di cui il professor Pregliasco parla e in qualche modo... Come diceva giusto Carlo Gargiulo, la vera influenza si riconosce da tutto il resto del mondo per tre cose, ovvero un inizio brusco della febbre oltre i 38, dolori muscolari, articolari, un senso di abbattimento, proprio di stanchezza che ci costringe a letto e sintomi respiratori, in particolare tosse secca e naso chiuso, naso che cola. Se ci sono tutta questa serie e costellazione di sintomi, allora siamo davvero autorizzati a dire che è la vera influenza. Non che le altre forme non siano da sottovalutare, ma questa ci preoccupa di più perché è quella che riduce anche di più le difese immunitarie e facilita poi l'insorgenza nei soggetti più fragili, negli anziani, nelle persone con bronchite cronica o altri problemi respiratori, quelle che sono poi le sovrainfezioni batteriche che diventano davvero impegnative per la salute. Intanto io, prima di dare la parola al dottor Gargiulo, voglio ringraziare i nostri ascoltatori, perché devo dire che dai vostri SMS a trascriverli si potrebbe fare un libretto. Dovremmo e nel corso della trasmissione li leggeremo e li sottoporremo ai nostri ospiti. Intanto, dottor Gargiulo, è possibile che la stanchezza ci prepari in qualche modo all'influenza? Ma direi che è possibile che la stanchezza, come elemento che diminuisce le difese immunitarie, ci consenta, faccia aprire la porta verso virus di varia natura e virus influenzale in particolare. Quindi può essere un elemento che facilita la comparsa dell'influenza. Come diceva giustamente Fabrizio, l'influenza ha questo esordio brusco e soprattutto l'influenza è quella che più predispone a delle complicanze. Non dimentichiamoci che lo pneumococco trova con il virus influenzale un amico con cui sotto braccio riesce a conquistare sicuramente i polmoni. Quindi ecco, questo è un elemento molto importante che ancora di più ce la dice lunga sulla necessità di vaccinare soprattutto gli anziani e vaccinare i bambini un pochino più cagionevoli ed evitare il contagio, cioè ridurre il soggiorno in ambienti chiusi, ridurre il soggiorno in ambienti dove è possibile che un influenzato, come sta accadendo lì un po' da voi, che Fabrizio vi sta un po' contagiando. Sì, è vero, tutto, infatti, io cerco di tenerlo lontano. Siamo un po' lontani. Infatti l'ho messo un po' lontano, perché ho detto, stia lì professore, ma posso venire? No, stia lì, l'abbiamo messo in fondo al tavolo. Angolino. Per tenere lontano il raffreddore, ci scrive Gianluca, dopo ogni doccia o bagno caldo, bagnare abbondantemente i piedi con acqua fredda. Questa è un'indicazione di Gianluca. Professor Pregliasco, l'ha mai provata? Lo sbalzo termico però non facilita le cose, anzi facilita quello che può essere un'infezione, quindi sono rimedi un po' pesanti che non suggerirei più di tanto. Un poco di rum. anche lei, dottor Gargiulo, però a lei faccio commentare anche questo. Un poco di rum, miele e limone. C'è chi mette anche un pizzico di ginseng. Non è un cocktail, ma lo usano come rimedio contro l'influenza e mal di gola, ci scrive Francesco. Dottor Gargiulo? Ma se non altro il rum può facilitare l'accettazione dell'influenza, perché se no, come efficacia, l'alcol lo sconsiglio sempre. Allora, vediamo se ad raccontarci, se come sta innanzitutto Marco dalla provincia di Lecco. Marco. Sì, buongiorno. Buongiorno, Lecco. Io premetto... Come sta, sì, Marco? Sto bene, premetto che sono vaccinato. Bene. Sono vaccinato. La mia domanda però era relativa alla trasmissione dell'influenza, voglio capire se si trasmetteva soltanto, come dicono, tramite la saliva oppure anche soltanto respirando o prendendo il virus nell'aria. Sì. Sì, per via diretta, quindi tra le goccioline respiratorie che ci scambiamo l'un l'altro. Il guaio è che però purtroppo anche per via indiretta, cioè per quegli oggetti che si contaminano con le goccioline respiratorie che mettiamo addirittura fino a distanza di 3-4 metri a velocità incredibile quando soprattutto starnutiamo e tossiamo, e queste goccioline respiratorie sul mouse, sul telefono, sulla maniglia del tram sono l'elemento determinante, tant'è che fra i rimedi e gli aspetti di buon senso da ricordare come sempre è proprio quello di lavarsi frequentemente le mani, perché è attraverso le mani in via indiretta che riusciamo purtroppo poi a contagiarci con virus che rimangono nell'ambiente, perché dobbiamo considerare un po' tutti gli sputazzi che ci capitano che noi nell'ambiente. Siamo chiusi in studio qui siamo veramente in una condizione blindati, a rischio, quindi lei è molto molto io a rischio. Sono molto a rischio, se domani non mi sentite la colpa è del professor Pregliasco. Marco ci chiama dalla provincia di Pavia. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Dunque, io avrei una domanda per il professor Pregliasco, il dottor Gargiulo. Sì. Forse avete già risposto prima leggendo gli sms. E riguarda un po' una diatriba che c'è tra me e mia moglie. Cosa succede? Vaccino, lei non lo fa. Lei, scusi Marco, lei lo fa e sua moglie no. Giusto. E comunque rimane sempre il fatto che io durante l'inverno faccio 3-4 giorni di influenza con febbre 37, 37 e mezzo, e lei pure. Sì. E alla fine dell'anno, dell'inverno mi dice sì, allora vedi che comunque non conviene. Certo, dottor Gargiulo, quindi è una famiglia che si vaccina a metà, insomma uno per due, però alla diciamo fine che... si ammalano tutte e due. No, in realtà non si ammala nessuno dei due di influenza, perché parlava di un 37,5, quindi una temperatura abbastanza bassa per essere una vera influenza. Direi che qui un vaccino basta per due, nel senso che il marito che si vaccina non porta in casa il virus dell'influenza e quindi la moglie ne ha un vantaggio indiretto, quel famoso vantaggio effetto gregge, come diciamo noi, più si vaccinano le persone e più quelli che non si sono vaccinati ne godono dei vantaggi. Io, se posso dare un consiglio, ma direi certo, quest'altro anno andate insieme, marito e moglie, a fare il vaccino. È anche una cosa carina, tutto sommato. Romantica. Dottor, esatto. Dottor Gargiulo, lei la butta anche sul romantico. Allora, certo. Intanto io vi leggo i messaggi che arrivano. Francesco, io faccio gargarismi con l'aceto. Oltre al mal di gola, quando lo faccio regolarmente, come l'impressione mi protegga pure dall'influenza. Professor Pregliasco. Prove scientifiche non ci sono. Sicuramente un effetto, come dire, disinfettante questo prodotto lo può fare. È un rischio, come sempre, quello di alterare un po' le mucose e poi facilitare in realtà la diffusione successiva del virus. Quindi, come sempre, non vorrei che si esageri troppo con rimedi che in realtà poi possano dare effetti loro stessi, non dico collaterali, ma facilitare in realtà il virus. Ci sono tra questi rimedi di buon senso, ottima la sciarpa piuttosto che il cappellino con gli occhi, con le orecchie, perché lì si riduce per esempio il raffreddamento delle prime vie aeree, che è l'elemento particolarmente a rischio, perché anche qui la barriera data dalle cellule delle prime vie respiratorie viene un po' in qualche modo ridotta nella sua efficacia dall'esposizione al freddo. Quindi alcune cose sono di buon senso. 824 0024, continuate a chiamarci. Dobbiamo, dottor Gargiulo, Charlie che ci scrive: ciao, sono tutta tappata, sono una cantante, quindi sono abituata a rimedi come il pentolone d'acqua calda con gocce di eucalipto, spray alla propoli eccetera, ma stasera devo cantare, quindi oltre che farcela con la voce devo stare in forma. Consigliereste o no questi rimedi di farmacia che dovrebbero stappare, ci scrive Charlie, o che cosa può fare? Un SOS per chi ha bisogno della voce e bisogno di stare in forma, magari ha un incontro importante di lavoro e si sente un po' acciaccato attaccato, dottor Gargiulo, capiterà a me domani, ad esempio. Direi senz'altro uno spray al cortisone, sì, che è usato per 24 ore, il tempo di arrivare a questa sera a cantare, potrebbe aiutare veramente le corde vocali, le prime vie aeree, a schiammarsi. Ancora le gocce per il naso, ce ne sono parecchi, di parecchi tipi, usate per 1 o 2 giorni riescono a dare una respirazione migliore nasale e quindi a consentire anche di poter parlare o cantare senza grossi fastidi. E poi il paracetamolo, una compressa di paracetamolo, sono rimedi che possono essere utilizzati per superare un momento critico che ci consente di andare a lavorare quando proprio non è possibile stare a casa. Questo è un SOS, giusto, del dottor Gargiulo, esatto, per stare in piedi, per affrontare una situazione di emergenza. Molto interesse, io volevo quindi chiedere ai nostri ascoltatori di in qualche modo schierarsi, perché oltre ai rimedi che arrivano di casa, arrivano proprio, ci sono due partiti, il vaccino non serve, il vaccino è utile, e poi tanti dubbi ancora sul vaccino, è ancora in tempo, faccio ancora in tempo se non rientro nelle categorie consigliate. Ad esempio, avrei una domanda: sono asmatico e se prendo l'influenza può essere devastante, ci scrive F, non vedo la firma, se prendo l'influenza può essere devastante, eppure dato che sono un allergico ci sono medici che mi sconsigliano il vaccino. Oh, assolutamente, direi l'asmatico è un soggetto che deve vaccinarsi, proprio perché, come è l'esperienza già dell'ascoltatore, l'influenza peggiora l'esordio degli effetti acuti di questa patologia. L'allergia è in questo caso verso il vaccino assolutamente limitata alle proteine dell'uovo, in situazioni veramente molto particolari e ben conosciute, perché l'uovo è un qualcosa che sperimentiamo tutti e quindi non è difficile sapere di essere allergici, e davvero la quota di popolazione che ha una vera allergia, non dico un'intolleranza, che non è quello che riguarda appunto la controindicazione, possa essere fatto. Quindi, come sempre, bisogna ribadire che il vaccino può avere degli effetti collaterali, in genere sono assolutamente banali, un pochino di febbre per qualche giorno o dolore nel punto di inoculo e arrossamenti, null'altro sostanzialmente a fronte di possibili effetti pesanti della malattia. Quindi io suggerisco sempre il vaccino, in tantissime condizioni diventa un'opportunità per il soggetto sano per evitarsi, certo, la malattia, ma un salvavita per quanto riguarda i soggetti a rischio. Ci si può ancora vaccinare, è un po' tardi, siamo sul filo di lana, però nulla vieta di vaccinarsi anche adesso, considerando che il vaccino dà una protezione dopo una decina di giorni dall'esecuzione. E quindi, dato che il Natale sarà un po' il momento della diffusione della malattia, ma poi gli effetti più pesanti ce li vedremo in gennaio, siamo ancora sul filo di lana a eseguire la vaccinazione, che non è controindicata. Dottor Gargiulo, lei ha suggerito un rimedio per la nostra cantante per stare in forma e riprendere la voce, ma Domenico invece ha un problema un po' diverso. Stasera arriva mia suocera, c'è modo per farle perdere la voce? Dottor Gargiulo, non risponda. 800 24 0024, povere suocere, sempre prese di mira. Sì, un bacio anche del nipotino può essere un elemento che facilita la diffusione dell'influenza alla suocera, ecco, questo potrebbe sono essere. Sono cattivi questi medici. Fabrizio, siete proprio cattivi. Essere e benessere. Siamo tornati insieme. Devo dire che nessuna suocera mi ha scritto dicendo dia una battuta sulla mano, una bacchettata al professor Pregliasco, ma lo faremo. Mi sono vaccinata a metà novembre. Sono stato malissimo per 3 giorni. Ora sono a letto con l'influenza, febbre alte e dolori assortiti. Da 4 giorni. Come la mettiamo? Ci scrive Stefano da Treviso, e in quel come la mettiamo c'è un mondo di pensieri. Diciamo così. Bisogna appunto vedere l'entità degli effetti e capire se c'è una correlazione che non sia solo casuale, perché spesso i vaccini in genere poi subiscono questo effetto negativo da episodi che non sono direttamente correlati, anche se un po' di febbre, come accennavamo prima, è possibile. In questo momento vera influenza, lo dicevamo, non ce n'è tanta, quindi io penso che siano quelle forme di virus diversi dall'influenza che comunque chi esegue la vaccinazione può subire lo stesso. Sì, quindi io sono sempre insomma ottimista e in positivo verso la vaccinazione, che ha dei limiti in termini di protezione, perché è vero che qualcuno può subire comunque delle sindromi respiratorie anche dovute allo stesso virus dell'influenza, ma davvero l'effetto, che però non si riesce a percepire sul singolo, ma se facciamo delle statistiche a livello di popolazione, i risultati sono davvero importanti e determinanti, soprattutto per quella quota di complicanze nei soggetti fragili. Dottor Gargiulo, andiamo a trovare appunto il nostro amico Stefano da Treviso. È a casa e a letto con la febbre alta e i dolori. Che cosa può prendere? Ma, come dicevo prima, il paracetamolo è sicuramente il farmaco più indicato per abbassare la febbre e diminuire i dolori quando questi sono molto fastidiosi. Ecco, febbre non a partire, mi scusi dottor Gargiulo, la febbre ognuno ce la misuriamo, ma c'è un valore al di sotto sopra del quale è meglio prendere il paracetamolo, oppure direi sopra i 38,5 come valore, sotto i 38,5 è perfettamente inutile prendere un antifebbrile, anzi forse può essere anche dannoso, perché la febbre è un meccanismo di difesa del nostro organismo, quindi aumenta le capacità del sistema immunitario, per cui sopra una certa temperatura abbassiamo la. Nei bambini un pochino più generosi, nel senso che nei bambini è meglio tenerla più bassa la temperatura, soprattutto nei bambini più piccoli, per evitare rischi da febbri alte. Ancora, il paracetamolo funziona molto bene per i dolori muscolari quando questi sono molto fastidiosi, e quindi è il farmaco più indicato in questo caso. Poi fluidificanti per la tosse se ne possono usare per rendere questa tosse più morbida, e ancora possiamo utilizzare qualche spray nasale per liberare un po' il naso e respirare meglio. Andiamo adesso a Foggia, ci chiama Vittorio. Buongiorno Vittorio. Buongiorno. Ci racconti, Vittorio, lei sta bene, vero? Niente, sì. Non niente, è qua. Io volevo chiedere. Sì, volevo chiedere al dottor Gargiulo. Sì. Io ho fatto una mia esperienza personale. Sono ormai 5 anni che d'estate vado tanto al mare. E poi assumo tanto peperoncino, cioè ho preso questa abitudine di assumere il peperoncino, e durante l'inferno non ho mai avuto più una febbre, influenza. Quindi lo aggiunge al sugo, Vittorio, lei mangia piccantino, e quindi pensa che il peperoncino le tenga lontano l'influenza. Dottor Gargiulo, è possibile? Ma il peperoncino ha delle virtù indubbie, dentro contiene la famosa capsaicina, di cui ancora dobbiamo scoprire molte cose. Senz'altro sappiamo che fa bene allo stomaco perché aiuta, facilita la digestione, sappiamo che non dà problemi come il pepe, perché che è semmai controindicato. Quindi potrebbe essere che questo uso del peperoncino possa stimolare in qualche modo come antiossidante anche le difese immunitarie. Non abbiamo dati precisi, però intanto possiamo dire di usarlo tranquillamente, perché non dà problemi. Soltanto se la persona soffre di emorroidi il peperoncino non è molto indicato. Beh, insomma, però se ne accorge da solo, no? Sì. Esatto, per un fastidio locale, quindi non c'è problema. Per cui continui col peperoncino. Continui, Vittorio, magari ha trovato una cura. Dovremmo sperimentarla su. Ecco, professor Pregliasco, si dia da fare. Andiamo a Roma, c'è Enrico che ci aspetta. Enrico, buongiorno. Buongiorno a voi, signori. Infatti volevo intervenire per quanto riguarda, diciamo, le nostre difese immunitarie, per la febbre, per, diceva il dottor Gargiulo, dice che fa anche bene in tutti i modi avere anche un po' di febbre, così rafforza le nostre difese immunitarie, diciamo, no? E anche in famiglia, io e mia moglie, attualmente io sono raffreddato, non è che sia tanto bene, è un semplice raffreddore comunque, però non smettiamo di fare la vita quotidiana, nel senso, anche del sano sesso tra me e mia moglie, diciamo, questo qua. Quindi se poi viene influenza, non viene, questo è bene. Lei dice pazienza. Lasciamo il caso. E quindi lei non ha una. Lei fa finta di niente. Mi raccomando, si lavi le mani, però. Vero? Certo. È giusto. Mi raccomando, Enrico. Grazie allora, Enrico. No, e è importante dirlo, le dita. Che l'influenza, appunto, nel soggetto sano, in fondo, è qualche giorno di malattia, di fastidio. Importante non demonizzarla, perché poi l'effetto, poi in eccesso di attenzione, porta poi a un rifiuto di un qualcosa che davvero però poi diventa importante, come insisto sempre, nel soggetto fragile, nel bambino con malattie respiratorie, cardiache, nell'anziano soprattutto. Allora sì, non bisogna, come dire, non far finta di niente, ma approcciare in modo appunto di buon senso, quindi inutile sforzarsi troppo, subire magari esposizioni a caldo freddo, gli sbalzi termici, insomma esagerare nella risposta del proprio organismo. meccanismo, perché davvero l'influenza ha questa caratteristica poi di ridurre le difese immunitarie, e quindi se si continua per esempio ad andare in palestra, non sforzarsi troppo, perché anche qui questa riduzione delle difese immunitarie anche nel soggetto magari più sano può facilitare complicanze o comunque far allungare i tempi di una ripresa e facilitare sovrainfezioni. Quindi una malattia da prendere con serenità e con tranquillità, ma tenendo conto che è una malattia piccolo rischio specifico, però così diffusa che i danni complessivi alla salute diventano sono i numeri che diventano poi un problema. Emanuela ci chiama dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Emanuela e benvenuta. Buongiorno a voi, buon Natale. Grazie. Ci racconti? Io regalo quello di Natale, ce l'ho, con il mio bambino di 20 giorni. No, ringrazio fantastico. Il dottore perché prima ha dato una spiegazione su cosa bisogna prendere in caso ci sono dei bambini piccoli. L'unica domanda che non volevo fargli è questa: se il bambino, come ha detto lei, ha un raffreddamento molto elevato, di prendere il paracetamolo, ma in farmacia lo danno anche senza ricetta? Punto di domanda. Il suo bambino ha meno di un mese però, vero? Guarda, un mese l'ha fatto adesso il 20 di novembre. Il 20 di novembre, quindi è un bambino molto piccolo. Ancora. Il 20 di dicembre. Dottor Gargiulo, le indicazioni che lei ha dato valgono anche per i lattantini? Assolutamente sì, il paracetamolo è anche in dosaggio per i lattanti, le supposte mitologiche cosiddette, anche per il primo anno di vita. Quindi è un dosaggio assolutamente controllato che si può dare in caso di necessità, ovviamente anche a un bambino così piccolo. La distribuzione in farmacia avviene direttamente, quindi non c'è bisogno di ricetta. Il farmacista lo dispensa direttamente lui, non è prescrivibile purtroppo col Servizio Sanitario Nazionale, ma il costo di questo farmaco consente di poterlo comprare senza problemi. Dottor Gargiulo, un bambino così piccolo, con la febbre, la mamma, è l'autocuro o meglio affidarsi al pediatra? Una telefonatina al pediatra, io da mamma apprensiva la farei, dottor Gargiulo. Beh, oddio, in un bambino tanto piccolo indubbiamente una febbre preoccupa, perché probabilmente non ha avuto le difese, il passaggio delle difese immunitarie che doveva passargli dalla mamma. In bambini così piccoli, se sono allattati al seno, sono più robusti perché hanno senz'altro gli anticorpi che passano attraverso il latte, in più ne hanno avuti attraverso la placenta durante la vita intrauterina, quindi certo. Direi che è un bambino abbastanza al riparo dall'influenza. Certo, se arriva una febbre che dura magari più di qualche ora, una telefonata al pediatra conviene farla. Vero, meglio disturbare il pediatra. Sì. O il medico, insomma, di famiglia. Sono un tassista. Come faccio a difendermi dai virus che molti clienti spargono nella vettura? E come sta facendo oggi il professor Pregliasco? È un guaio, perché davvero il taxi è uno degli elementi più a rischio, visto anche l'esposizione poi al freddo, al caldo e una vicinanza. Qui sono guai, perché in effetti al di là di una disinfezione delle mani e un'alimentazione che aumenti la quota di vitamine, sia classica vitamina C ma anche le vitamine del gruppo B e antiossidanti, purtroppo poco si può fare se non la vaccinazione. E poi, ecco, quello è l'elemento che è importante, volevo rilanciare: l'autocura è sbagliata, l'automedicazione sì, cioè l'uso dei farmaci sintomatici, quelli riconoscibili per un colombollino rosso, come essere appunto autoprescrivibili e quindi acquistabili direttamente in farmacia, è importante in un concetto di riduzione dei sintomi senza azzerarli, perché questi farmaci non curano. È importante rilanciare anche una campagna nazionale, che è quella che il Ministero ha fatto per evitare l'uso di antibiotici, quindi di quella autoprescrizione di prodotti che spesso uno vuole usare perché vuole dei cannoni per far fronte invece a qualcosa di cui bastano diciamo armi più leggere. Ed è importante questo approccio di se si è colpiti di seguire l'andamento della malattia, attenuare i sintomi, perché è inutile star male con febbre elevate, però come giustamente diceva Carlo, la febbre come tale è una delle risposte all'organismo a livello immunitario per poter andare oltre, andare avanti e guarire in modo rapido. Simone ci chiama dalla Spezia, buongiorno Simone. Buongiorno. Essere e benessere. Simone, siamo insieme a lei, eccoci. Buongiorno e buona Natale a tutti. Anche a lei, Simone. Buongiorno. Io avrei due quesiti veloci. Una, ho avuto due modi di affrontare l'influenza. A volte l'ho combattuta anche con la febbre 38 e uscivo anche sotto la neve e non mi è venuto niente il giorno dopo. A volte mi accoccolavo sotto le coperte e magari febbre di seguito. Quindi lei è un tipo che ha bisogno di un trattamento d'urto, tra virgolette, sentendo questo. Sì, chiedevo se era una cosa scientifica oppure se è stato solamente un caso mio che va naturalmente da persona a persona. Allora, dottor Gargiulo, a lei, poi Simone ha un'altra domanda. A questa prima domanda, dottor Gargiulo, che cosa si può rispondere? No, direi è sconsigliabile a chiunque con una febbre influenzale o simile influenzale uscire di casa, magari esporsi anche al freddo. È sconsigliabile perché, come dicevamo prima, l'influenza in particolare apre la porta allo pneumococco e alle polmoniti, quindi il rischio è molto elevato. Il nostro ascoltatore è stato fortunato, però io lo sconsiglierei di ripetere questa esperienza. Perché una volta gli è andata bene e magari la seconda volta si prende. Simone. Quello che diceva invece, importante, che vorrei sottolineare, lui diceva: mi metto sotto le coperte e la febbre non passa. È vero. Quando si ha la febbre alta, passato il momento del brivido, cioè della salita della temperatura, bisogna poi scoprirsi, perché restare scoperti, leggeri, in un ambiente a temperatura normale consente di diminuire fisiologicamente la temperatura senza farmaci. Quindi non serve, soprattutto noi, per noi mamme, che i bambini li copriamo, esatto. Non serve, e li lasciamo un po' liberi, magari senza camminare scalzi. Sì, Simone, lei voleva fare un'altra domanda o se n'è già andato via? No, sono qua, sì. Se posso veloce. Quando avevo 16, 17, 18 anni e passavo le mie estati all'Elba e quasi tutte le notti rientravo tardi, a fine agosto puntualmente avevo 3 o 4 giorni di febbre a 39. Penso, non so se esiste una febbre da stanchezza o cose del genere, da stress fisico. Da un piacevole stress fisico, considerato gli anni in cui andava a fare tardi la notte all'Elba. Professor Pregliasco, anche lei ha avuto queste febbriciatole da giovane? Purtroppo alla fine di agosto. Era un caso grave, perché studiavo, un caso grave veramente, quindi forse era bene esporsi a questo rischio. Effettivamente la stanchezza e l'esercizio fisico, bisogna dirlo appunto, ha un effetto positivo complessivamente, fare sport sistematicamente, perché ci si abitua agli sbalzi termici, si rafforza la difesa immunitaria, ma il problema è che c'è un periodo finestra di alcune ore dopo un esercizio che ci ha stancato molto, dove davvero lì possono entrare di tutto, e magari anche in questo caso febbri estive potevano essere dovute ad altri virus che durante anche l'estate comunque ci sono e poi possono causare, grazie a questa riduzione di difese immunitarie, fastidi anche estivi. Allora io ho voluto raggiungere un'amica, perché in questi giorni, dato che iniziamo un po' a covare questa sorta di influenzina, il professor Pregliasco mi darà, non la chiamiamo influenzina ma simile influenza, il professor Pregliasco mi darà la botta finale, pensavo alla mia amica che anche lei è a rischio di influenza, ma a differenza mia che vado solo in voce, quindi posso arrivare anche in radio tutta intabarrata, è in video, e allora ho pensato di chiamarla per dire se sta facendo gli scongiuri o qualche cosa di simile. Al telefono abbiamo Paola Salluzzi, giornalista Sky TG24. Paola, ciao! Nicoletta, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Allora, io per essere professionale fino in fondo, da due giorni ho l'influenza. Ecco, perché, vedi? Ecco, per essere proprio professionale, ho detto, dico, qua se si parla di influenza cerchiamo di trovarci esattamente preparati sul campo. Certo. È vero, tutto vero, nonostante la mettiti la maglia pesante, che è stata un classico di quelli della mia generazione, per cui io purtroppo sono per esempio tra le persone che non porta la maglia sulla pelle, questo molto spesso è gran veicolo per l'influenza, nel senso, quantomeno per le infreddature. Nicoletta, il fatto di sicuramente di dover andare in video, di dover comunque portare avanti la settimana anche da influenzati è pesantina, è pesante. Si cercano, allora, i metodi più naturali sono per me tante tisane di echinacea, quindi cose calde, molto calde, sì, da bere, spolverate con il miele, diciamo così, perché quello lì vale la golosità da orso che mi contraddistingue, sì, perché con la sfusa, insomma, sono cucchiaioni di miele a volontà, e tanto fastidio, soprattutto, certo, il fatto di non riuscire a respirare. Vi sembrerà una banalità, ti soffi il naso nelle pause e il trucco del naso va via. È vero, poi è cola, immagino, è cola anche quello degli occhi, quindi... Assolutamente, quindi devi evitare di sembrare tra Gianduia e il carnevale di Viareggio, insomma, e quindi è un fastidio, insomma, si spera sempre che arrivi presto il fine settimana per scatenare lì tutta la, la, tutto il peggio. Senti, ecco, Paola, ma io qua con il dottor Gargiulo, il professor Paragliasco, devo dire, Paola, che quasi ti facciamo guarire al telefono con un consiglio del dottor Gargiulo, poi a Paola Saluzzi i consigli si danno molto volentieri, e un consiglio rapido anche del professor Paragliasco. Sono qui, apposta. Dottor Gargiulo. Eccomi qua, assolutamente volentieri, a Paola che saluto e che è un'amica che io stimo tantissimo, tra l'altro. Grazie. Quindi, Carlo, un consiglio per questa forma di raffreddamento è difficile, perché come dicevo prima io sconsiglio di lavorare, però per chi lo deve fare per forza ricorriamo a un sistema per diminuire la secrezione nasale, questo aiuterà la truccatrice e la farà lavorare un po' meno. E poi anche qua una mezza dose di paracetamolo può essere utile se dobbiamo poi affrontare un impegno, quindi prenderla qualche ora prima dell'impegno e andare con un po' più tranquilli. Un'ultima cosa velocissima, sì? La maglia a pelle. Io non sono favorevole alla maglia di lana a pelle, io dico sempre vestiamoci a sfoglia di cipolla, sì, cioè una maglietta di cotone a pelle, sopra una camicia, sopra il maglione, sopra la giacca, in maniera che possiamo mettere o levare indumenti a seconda della temperatura in cui ci troviamo. Paola, il dottor Gargiulo, ti ha fatto vestire un po' da maschio, da uomo, ma noi naturalmente traduciamo in versione femminile rapidamente. Solo per rinforzare l'importanza dell'echinacea, che abbiamo dimostrato come efficacia proprio a livello laboratoristico, quindi senz'altro questi elementi appunto infusi di echinacea utili e importanti, perché sono un qualcosa che ha un fondamento scientifico di efficacia, quindi in abbondanza. Paola, un bacio, grazie. Grande. Grazie Nicoletta, grazie ai tuoi prestigiosi ospiti, permettimi, visto che siamo in corsa di fine anno, di farti tutti i complimenti a te, farli a tutta la tua redazione, perché il tuo programma, Nicoletta, è cultura dello stare bene. Io lo seguo con regolarità, sei tu, oramai ti sottolineo 5 volte, 10 volte al minuto, siete bravissimi, questo è il vero servizio pubblico, il migliore che si possa fare, perché è fatto con grazia, quindi si parla di tutto con estrema grazia, questo fa parte della tua competenza e del tuo cuore. Oh, complimenti anche alla tua redazione. Grazie Paola. E buon Natale. Buon Natale. Buon Natale, buon Natale. E io direi che oggi approfitto anche di avere qua il professor Pregliasco e il dottor Gargiulo al telefono, perché volevo fare una considerazione con voi. Oggi il Servizio Sanitario Nazionale compie 30 anni e questa credo sia una data importante, soprattutto una buona occasione per fare un bilancio. Io ho chiamato al telefono con noi il professor Giuseppe Remuzzi, che ha Essere Benessere Super di casa. Professor Remuzzi, buongiorno. Si prende anche lei i complimenti della Paola Saluzzi, è coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo, direttore del Dipartimento Trapianti agli ospedali riuniti, sempre di Bergamo, ma soprattutto in questa occasione qua come firmatario del manifesto per la rinascita della sanità. Allora, professor Remuzzi, vogliamo iniziare dal bicchiere mezzo pieno o da quello mezzo vuoto? Partiamo dai punti di forza del nostro Servizio Sanitario Nazionale, da quelli di debolezza. Ma certamente dai punti di forza. Andiamo, allora. C'era il Servizio Sanitario Nazionale, si è fatto con la legge 833 del 78, l'idea veniva dall'Inghilterra, il governo attraverso le tasse garantisce a tutti di potersi curare indipendentemente dal reddito e lo fa, o almeno in teoria avrebbe voluto farlo, chiedendo ai medici di famiglia e a quelli dell'ospedale di collaborare a un unico progetto. Cominciamo dal bicchiere mezzo pieno, perché è la cosa più importante che abbiamo, il Servizio Nazionale, la cosa più preziosa è il Servizio Sanitario Nazionale, e non costa nemmeno tanto, è l'8% del PIL contro il 14% degli Stati Uniti. Sì. A noi sembra normale che se uno è ammalato possa andare in ospedale, essere curato e guarire, ma non è così dappertutto. Negli Stati Uniti ci sono 20 milioni di cittadini che hanno un'assicurazione privata, il governo paga per i poveri e i disabili, ma 40 milioni non sono assicurati abbastanza e quasi 50 milioni oggi non hanno accesso alle cure, nemmeno quelle più necessarie. Per afroamericani e ispanici la mortalità infantile là e l'aspettativa di vita sono quelle dei paesi poveri. Incredibile. Noi non ce ne rendiamo conto, no. Da noi no, chi è malato ha accesso alle cure che servono. Professor Remuzzi, abbiamo quasi un minuto, se riusciamo a dire anche i limiti e poi ho una proposta da fare a tutti e tre? Certo, dopo 30 anni si può dire che il nostro sia davvero per tutti. No, non sempre. Succede che più chi può pagare abbia tutto e subito e gli altri certe volte aspettano. Io penso che bastino piccole cose, ma ci vuole coraggio per cambiare. Separare la politica dalla gestione, i migliori medici degli ospedali dovrebbero lavorare con i medici di famiglia, le liste d'attesa vanno ridotte ma senza aumentare l'offerta, deve essere più appropriata la domanda. Sì. Gli ospedali dovrebbero poter lavorare con le norme del diritto privato, quindi più agilità, via i controlli formali, a favore di sistemi che misurino davvero l'esito delle cure. E poi la cosa più grave è quella che se uno paga può avere tutto e subito, gli altri aspettano, per i piccoli disturbi non c'è problema, ma se uno ha un disturbo grande sono guai. E io credo che questa di tutte le cose da sistemare è forse la più importante, se no che servizio sanitario nazionale è? Professor Remuzzi, io invito anche il professor Pregliasco e il dottor Gargiulo. Siamo in chiusura, lancio rapidamente una proposta a voi che siete qua in studio in linea con me e agli ascoltatori da casa. Noi apriremo un forum da oggi sulla nostra radio. Ciascuno di noi può far sentire la sua voce. Non scriviamo solo lamentele inutili, ma scriviamo una nostra considerazione sul Servizio Sanitario Nazionale e una nostra proposta. Che cosa vorremmo di diverso? Come vorremmo cambiare? Anche come, secondo noi, raccoglieremo tutti insieme le vostre impressioni, ci daremo appuntamento e ne discuteremo di nuovo insieme. Quindi io invito già il professor Remuzzi, il dottor Gargiulo e il professor Pregliasco di dare così il là a questo forum, andando a casa scrivendoci su Essere Benessere, e poi aspetto voi. Intanto grazie tante ai miei ospiti, un grazie collettivo, appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Un saluto e buona giornata da Nicoletta Carbone.